Sono lieta di dare a tutti voi, a tutti i partecipanti, il benvenuto all'École française de Rome e per una volta, insomma, come direttrice dell'istituzione, anche per introdurre questo convegno, perché mi sono occupata da più vicino di questo tema dei Delta da qualche anno, come certi di voi lo sapete. Questo incontro, di cui vedete una parte soltanto della locandina, perché voglio far vedere più da vicino gli organizzatori, eccetera, eccetera, è il primo di una ricerca che per l'école entra, come lo vedete, nel programma Roma Tevere Litorale, ma che si chiama da un acronimo CIRILI, City River Littoral, e che porta sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nei territori delta e nelle foci urbanizzati. È un programma sostenuto, ed è per questo che ho fatto il focus sui partner, dall'École Française de Rome, ma accanto all'École Française de Rome, dall'Università di Aix-Marsiglia, attraverso il LabExMed e anche attraverso iniziative d'eccellenza che si chiama Amidex, anche attraverso il Centre Camille Julien, che è un laboratorio CNRS Università di Aix-Marsiglia, e finalmente un'iniziativa sostenuta anche dall'Università di Roma 3 e più specialmente dal laboratorio Centro per lo Studio di Roma, il famoso CROMA, di cui purtroppo devo scusare l'assenza della direttrice Giulia Canneva, di cui vi parlerò un po' a lungo dopo, anche perché è stata da sempre accanto a me in questo programma, che non poteva essere questo pomeriggio, ci raggiungerà stasera, forse nel tardo pomeriggio, ma è fuori con studenti ad Alumiere, non poteva esserci per l'inizio. E altri sostenitori, non pochi sostenitori, sono gli amici che vengono dalla Spagna, l'Università di Cadiz, e anche la Casa de Velázquez. Stéphane Michonneau, il direttore di studi per l'epoca moderna e contemporanea, non è potuto essere con noi, però la Casa de Velázquez è stata accanto a noi da molto tempo e un grosso sforzo è stato fatto da questa parte. Casa de Velázquez, che come sapete fa parte della stessa rete dell'École française à l'étranger, quindi una sorella dell'École française de Rome. E per finire, la British School at Rome. Anche lì Simon Key ci raggiungerà, spero, fra poco, ma è vero che in questo momento tutti sono più o meno sull'arrivo, diciamo. Allora, i territori che studiamo attraverso questo programma, ecco i quattro delta, ciascuno riconoscerà il suo, presentano delle specificità ambientali, economiche e sociali che le avvicina l'uno all'altro e che sono legate alla loro posizione tra terra e mare, come insomma intermedio tra terra e mare. Si prestano bene ad uno studio transdisciplinare e sulla lunga durata. Sono zone che oggi come ieri hanno sopportato una popolazione numerosa e un intenso traffico mercantile e umano. Come rendere questa mobilità compatibile con il rispetto e la preservazione dell'ambiente, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e, finalmente, il benessere degli abitanti. I vari partner implicati in questo programma sono convinti, almeno spero parlando al nome di tutti, che sarete tutti d'accordo, che il mondo accademico possa portare un contributo utile alle nostre società attuali che si pongono questi problemi, problemi che si sono già posti nel passato. Uno degli obiettivi di CIRILI, dunque, è di consegnare entro un anno e mezzo, due anni al massimo, l'abbiamo scritto e lo faremo, spero, un white book sulla gestione delle circolazioni in territori di delta urbanizzati ieri e oggi. Quattro delta foci sono stati scelti per lo studio: il Guadalquivir, il Rodano, il Nilo e il Tevere. Ovviamente le soluzioni saranno diverse anche perché questi territori, pur essendo paragonabili, non sono gli stessi e il paesaggio di ciascuno dei paesi è diverso. Per esempio, sono convinta che i problemi ambientali del Delta del Nile sono veramente grossissimi problemi, ma nello stesso tempo ci sono anche altre emergenze politiche in Egitto adesso che fanno forse che non sono al primo piano per i politici allora, ma comunque ci è sembrato che il paragone poteva essere di interesse per il futuro. Voglio tornare brevemente sulla storia del progetto, nato nel 2012, di un programma dedicato, come l'avete visto sulla locandina, al solo territorio compreso tra Roma, Mare e Tevere. Un programma che è nato di una collaborazione tra British School at Rome, École Française de Rome, Istituto Olandese, Università di Roma III e di Roma Sapienza e Soprintendenza Archeologica di Roma. Le sfide sono in effetti numerose sul nostro territorio. Mi permetterete di parlare un po' del territorio del Tevere? Cercherò di essere breve perché posso parlare dei problemi per ore ed ore, ma non è il tema del pomeriggio. Ma se vogliamo fare qualche esempio, c'è un problema di valorizzazione dei siti patrimoniali, per esempio Ostia Antica, che a mio avviso, e non sono sola a condividere questo avviso, è uno dei più belli siti antichi dell'Italia, siti romani, diciamo. Ostia è poco conosciuta dai turisti, ma anche dagli abitanti. Accanto alla cifra che invade ogni anno il Colosseo, il Foro Palatino, c'è un po' un squilibrio che pone problema. E come parlare di Ostia non è niente quando si parla di Portus, per esempio, di cui la valorizzazione Portus, il porto della Roma imperiale, che scopriremo alla fine di questo convegno, questo sito, metà proprietà demaniale, metà proprietà privata, è chiuso al pubblico da tanto tempo, riapre poco a poco e sabato ci sarà una giornata porta aperta, e questo è simbolicamente un segno molto forte, ma riapre fino ad adesso per eventi particolari e su richiesta. Quindi c'è tutto questo discorso di valorizzazione di siti poco conosciuti, anzi chiusi. C'è anche il discorso accanto a questo sito dello sviluppo molto importante e molto grave in un certo senso, ma comunque impossibile da impedire, dell'aeroporto di Roma Fiumicino di Leonardo da Vinci, il primo aeroporto d'Italia. Sesto di Europa, nel 2014 sono passati 36 milioni di passeggeri in questo aeroporto ed è previsto all'orizzonte 2020, per dire, 50 milioni di passeggeri circa. Quindi c'è questa espansione con una pista in corso di allestimento, un'altra in progetto, un nuovo terminale in progetto. Come gestire questo nell'ambito del territorio, nel rispetto delle altre aree? E come usufruire della prossimità di questo aeroporto, di tanto passaggio di gente, così vicino a siti come quello di Portus che vedrete sabato. Poi c'è anche il progetto che pone tanti problemi, ma che mette un po' di tempo ad avanzare, ma che rimane comunque in sospeso e forse sarà realizzato, forse più di forse penso che sarà realizzato, di un porto a Fiumicino, di un porto per le grandi navi di crociera, per raddoppiare le capacità di Civitavecchia. Come gestire questo nuovo porto nel paesaggio del Delta? Poi c'è il progetto di navigabilità sul Tevere, che va avanti anche lui in rapporto con questo porto tra Tevere e Roma, il progetto di valorizzazione del Tevere e delle rive del Tevere. E su questa zona delle rive tra Roma e Fiumicino, tanti tratti che sono lasciati adesso all'abbandono o ai migranti che non hanno casa e che vivono in queste parti in uno stato veramente poco dignitoso. Tutto questo sono problemi che noi scientifici non possiamo pretendere risolvere, ma che toccano ai politici e che sono problemi gravi, certo gravi. C'è ancora il problema della gestione umana da risolvere ogni giorno, il problema dello spostamento della gente che vive in questo territorio del Delta, che si è molto sviluppato, l'habitat si è sviluppato parecchio da 20 anni. Il comune di Fiumicino è quello che è diventato un comune, e questo è da notare perché dipendeva prima dal comune di Roma, è primo in crescita. popolazione da 20 o 25 anni. Dei quartieri totalmente nuovi sono usciti da niente, penso per esempio a Parco Leonardo. Ora, in queste zone vive la gente che viene a lavorare a Roma e che non sempre ha un accesso facile ai mezzi pubblici. Parco Leonardo è un esempio al contrario perché, lo sappiamo tutti, è accanto al treno che collega Fiumicino a Roma. Ma tante altre zone sono più lontane, più arretrate e si va a Roma con la propria macchina o non si va a Roma. Questo ovviamente non è una soluzione auspicabile per i trasporti di una grande città. Dunque, mi fermo lì perché se no sarò ancora lunga, ma volevo segnalare un po' tutti questi problemi, queste problematiche che sono state toccate e tante altre ancora in un convegno che ci ha riuniti 2 anni fa, più o meno, in maggio 2013, su Roma Tevere Litorale, 3.000 anni di storia, le sfide del futuro. I testi presentati in questa occasione sono ormai accessibili sul sito che vedete qui nello slide, sul sito internet del convegno. L'incontro era concepito come un dialogo tra discipline diverse, un po' come oggi e come tutti gli incontri in questa scia. Allora, non so se sarò capace di citare tutti i colleghi, tutte le discipline rappresentate in questo convegno, ma c'era l'architettura, l'archeologia, la botanica, la biologia, geografia e geomorfologia, economia, sociologia, storia, urbanismo, eccetera. E questo convegno, come si vede bene dal titolo, 3.000 anni di storia, si scriveva anche sulla lunga durata, perché siamo convinti che si possono trarre le lezioni del passato. Una sessione era già dedicata ad un'apertura verso altri delta, come il Rodano e il Nilo. Le piste di ricerche aperte da questo convegno sono state oggetto qui a Roma di un approfondimento nel corso dell'anno 2014 che vide l'organizzazione di un seminario permanente intitolato come il convegno. 9 seminari sono stati organizzati tra febbraio e dicembre del 2014 in 9 luoghi diversi, per lo più sede delle nostre, diciamo, istituzioni, ma abbiamo cercato, ci siamo sforzati anche di uscire del mondo accademico e di andare un po' nella città, perché ancora una volta la nostra idea era di interessare alle nostre ricerche i responsabili delle politiche territoriali e del mondo privato, nonché gli abitanti stessi. Le comunicazioni realizzate nell'ambito di questi seminari sono già in corso di pubblicazione. Tutti i testi sono raggruppati e speriamo prima della fine dell'anno, per il nostro prossimo incontro ad Arles, di avere il volume pubblicato in coedizione tra il CROMA e l'École Française de Rome. Questi seminari hanno consentito al gruppo di farsi conoscere un po' di più nella società civile, se vogliamo. E un risultato concreto è stato la partecipazione delle 2 co-organizzatrici dei seminari, che vi ho evidenziato con questa freccia, non so se vedete bene, ma si tratta di Giulia Canneva, direttrice del CROMA, e me stessa, a un incontro suscitato dalla Commissione Ambiente del Comune di Roma sul progetto Contratto di Fiume del Tevere. Il gruppo è tuttora associato alla realizzazione della parte introduttiva e di qualche schede progetto di un master plan sulla navigabilità e la valorizzazione del Tevere, un master plan gestito dal Consorzio Tiberina, di cui il presidente sarà presente ad una parte dei nostri lavori e presiderà l'ultima seduta sabato mattina. E di più faccio presente che domani, penso che è domani, non ho più il programma totalmente in memoria, ci sarà un intervento del segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Tevere che interverrà, sì, domani. Quindi un po' di legame l'abbiamo già fatto e sarei curiosa di sapere come siete per esempio in Spagna, perché ho l'impressione che legami con la giunta di Andalusia ne avete anche voi, quindi sarebbe interessante da confrontare. Mentre il progetto, quindi Roma Tevere Litorale, proseguiva, abbiamo iniziato, nella scia del programma del convegno del 2013, un progetto per approfondire il paragone tra territori di Delta con una focale sul problema della mobilità e delle circolazioni, perché il tema era emerso con un particolare rilievo dal convegno di maggio 2013. All'inizio l'idea nostra era di ottenere un finanziamento europeo nella categoria dei cost per allargare la rete dei paesi interessati, perché dei paesi interessati allo studio di questi territori, perché paesi comprendendo un delta urbanizzato, tanto in Europa che nel sud, nella riva sud del Mediterraneo. Dopo essere stato selezionato nel primo giro, il dossier non ha superato la seconda tappa in aprile 2014. Ma un lavoro non è mai perso e l'idea di continuare con quelli che erano più implicati in questo dossier, penso ai colleghi di Cadix, anche ai colleghi della MMSH e di Aix-en-Provence, l'idea ci è venuta, continuiamo comunque in più ridotto, ma continuiamo e con le proprie forze e anche, devo dire, con l'aiuto dell'Università di Aix-Marseille, che era interessata al Rodano, al Tevere, al Nilo. Al Guadalquivir penso di no, ma qualcuno mi potrebbe contraddire, non lo so. E veramente voglio ringraziare tutti quelli che a questo momento, nell'aprile 2014, hanno detto sì, continuiamo insieme. Prima di tutto i colleghi di Cadix, Lazzaro Lagostena, Emilio Martin e Isabella Morales, qui presente, sono stati essenziali nella realizzazione del dossier. Il loro appoggio è stato continuo e fedele. Sono molto contenta perché è la prima volta che ci vediamo in carne e ossa. Ci siamo visti tante volte in videoconferenza. Sono veramente contenta di poter accoglierli oggi. Nonché ovviamente la Casa di Velázquez, anche se Stéphane Michonneau non è qui oggi, è stata molto presente. Ma essendo nei ringraziamenti, non posso non ringraziare il Centre Camille Julien e soprattutto la direttrice del Centre Camille Julien, qui presente Marie-Brigitte Carr, e Corinne Rousse, che hanno portato tutti e due questo programma e l'hanno portato con tanti sforzi, perché finalmente tutta la pratica di fronte all'Università di Aix-Marsiglia sono lei che l'hanno fatto. Senza dimenticare ovviamente di ringraziare, perché sono i fedeli tra i fedeli dall'inizio, tutti i colleghi del nostro gruppo ormai Roma Tevere Litorale, che hanno subito tante riunioni a Palazzo Farnese. C'è peggio di Palazzo Farnese per riunirsi, ma comunque sono state riunioni faticose e tutti l'hanno fatto con grande buona volontà. Allora non so se non dimenticherò qualcuno, ma voglio citare Giulia Canneva del CROMA, Carlo Travalini anche del CROMA, Renato Sebastiani della soprintendenza, Evelyne Bukowiecki qui presente, che ci presenterà il sito di Porto sabato, che attualmente è dal DAI di Berlino in postdottorato, ma che ha anche legami forti con Aix-en-Provence e con l'École française, Daniela Esposito e Ivana Haït della Sapienza, e Simon Key dell'Università di Southampton e della British School. Tutti che vedrete a un momento o l'altro durante queste giornate, anche se non hanno potuto tutti essere qui con noi stasera. Vengo al dunque e all'incontro che ci riunisce adesso. Ritorniamo ai nostri delta. È il primo di tre incontri. Alla fine dell'anno 2015, in dicembre, il 10 e 11 dicembre, se ricordo bene, ci ritroveremo ad Arlen, al Museo di Arles Antique, per una tavola rotonda sul tema dell'impatto delle circolazioni sull'ambiente e nei territori di Delta. Poi, alla primavera 2016, una data che non abbiamo ancora fissato, ma fra poco la fisseremo, ci andremo tutti a Cadiz. Speriamo che ci potremo spostare anche verso Sevilla per un incontro dedicato al ruolo che possono giocare le infrastrutture di trasporto nello sviluppo economico e nella valorizzazione patrimoniale delle stesse aree. Speriamo, dico speriamo perché questo è ancora da valutare, non siamo ancora sicuri di poter organizzarlo, ma speriamo di poter concludere alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, con una summer school organizzata ad Alessandria, perché mi sembra che per essere completo un programma come questo deve anche indirizzarsi ai più giovani. Vedremo. C'è già abbastanza da fare per adesso, senza dimenticare mai nel corso del convegno che ci riunirà attualmente e poi degli altri, che siamo tra universitari, ma dobbiamo sforzarci di far passare un messaggio al di là e di pensare al nostro white book, che è uno dei scopi finali. Il presente incontro è, questa volta avete il programma con voi, è diviso in tre sezioni. La prima tratterà domani mattina dei regimi fluviali e dell'evoluzione delle coste e degli ambienti ripariali, sempre sotto l'angolo delle circolazioni marittime e fluviali. Domani pomeriggio e venerdì mattina saranno dedicati allo studio dell'organizzazione materiale delle circolazioni marittime e fluviali rispetto alle necessità tecniche che hanno cambiato col tempo. Poi la terza sezione esaminerà il ruolo degli uomini e l'impatto economico delle circolazioni, per finire con il capitolo più aperto sulla visione della società, delle società, su questi territori attraverso la lunga durata. Il venerdì sera i poster, che uno è già esposto giù nel cortile del palazzo, penso che gli altri arriveranno fra poco, i poster saranno presentati da uno dei loro redattori nel cortile. Il sabato, dopo le ultime comunicazioni, è prevista una visita sul sito di Portus, l'antico porto della Roma imperiale, come dicevo, sotto la guida di Evelyn Bukowiecki, Simon Key e Renato Sebastiani, che ci consentirà di scoprire concretamente il paesaggio e il patrimonio del Delta del Tevere, nonché di valutare le comunicazioni che permettono di rendersi sul posto. Non dico di più, vedrete, c'è, per i partecipanti c'è una sorpresa. Per cominciare subito i nostri viaggi acquatici, abbiamo voluto fare un focus su una zona fuori dei quattro delta, ma in una situazione abbastanza vicina, direi almeno per il periodo prima dell'Ottocento, per il periodo che chiamiamo spesso di Ancien Régime. I porti di Narbonne, famosi soprattutto nell'epoca antica, sono ambientati in una zona lacustre e alle foci del fiume Aude. La loro recente scoperta e il desiderio di valorizzare il ricco passato della città e del territorio, il desiderio anche da parte dei politici del territorio, creano, mi sembra, una situazione che scoprirete con grande interesse, ne sono convinta, perché ci ricorda un po' le nostre situazioni. Dunque, è tempo per me di lasciare la parola a Marie-Pierre Gézégou del DRAS, Nicolas Carayon del ERC, diretta da Simon Key a Southampton, e Ambroise Lassalle, direttore del Museo di Narbonne Antica, ricordando che hanno complessivamente come tempo di parole un'ora e che da domani in poi gli interventi non dovranno superare la mezz'ora, perché sarei desiderosa di avere un dibattito dopo ciascuno delle comunicazioni per poter scambiare liberamente e ampiamente. Ma prima di auspicare a tutti un buon lavoro, voglio ringraziare una persona essenziale all'organizzazione di questo programma, una persona con cui siete stati in contatto durante queste ultime settimane, che ha assicurato tutta la logistica e la gestione del vostro arrivo, della vostra permanenza, di tutto quello che faremo in questi tre giorni. Voglio parlare, e che l'ha fatto con tanta amabilità, tanta efficacia, penso che ne siete coscienti di questo. Voglio parlare di Giulia Cirenei, che si nasconde dietro la porta, ma che sta lì. Bene, Adesso vi passo la parola.